Le aziende direi che per la stragrande maggioranza hanno già ripreso la produzione a 6 mesi. La produzione non è arrivata certamente al 100%, quindi siamo ancora lontani dalla situazione pre-terremoto. Tutto questo è stato fatto, come posso dire, con finanziamenti ordinari oppure con mezzi propri delle aziende, perché in realtà, come peraltro sapevamo, per noi non è una novità, la parte importante degli aiuti arriverà in gennaio del 2013. È chiaro che il territorio ha ripreso a lavorare con grande forza, con grande vigore, con grande volontà. Le difficoltà sono più che altro connesse a questo arrivo degli aiuti, ripeto, non inaspettato, perché questo è stato il meglio che si è potuto ottenere dal governo centrale. E per quanto riguarda invece tutta la parte relativa al fisco, quindi tasse, contributi, cosa è successo in questi mesi? A oggi è stato concesso solo alle aziende che hanno avuto danni materiali, crolli in pratica, quindi o crolli dello stabilimento o macchinari distrutti dal terremoto. Stiamo trattando proprio in queste ore con il governo l'estensione di questo beneficio, quindi del rinvio a giugno attraverso sempre questa forma di credito bancario i cui interessi sono gratuiti nel senso sostenuti dallo Stato, lo stiamo trattando anche per chi ha avuto danni sempre da terremoto ma non crolli di stabilimento. Lo stesso Presidente del Consiglio l'ha definiti crolli di fatturato, quindi per aziende che hanno dovuto sospendere a causa del terremoto la produzione, che hanno avuto un notevole decremento di produzione, di fatturato e quindi sono state danneggiate appunto in questo modo dal terremoto.